voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Did you hear that? It's 12 o'clock. It's midnight. Look at the clock. One hand has met the other hand. They kiss. Isn't that wonderful? That's the way a clock works. What's wonderful about it? Ninotchka, it's midnight. One half of Paris is making love to the other half. Thank you. Ammucchiammo i mobili di mio fratello nella parte posteriore della macchina e ci mettemmo in viaggio col buio, promettendo di essere di ritorno entro 30 ore. 30 ore per 1600 km a nord e a sud. Ma era così che voleva Dean. Fu un viaggio duro, ma nessuno di noi se ne accorse. L'impianto del riscaldamento non funzionava e di conseguenza il parabrezza si copriva di vapore e di ghiaccio. Dean continuava a sporgersi mentre guidava a più di 100 all'ora per ripulirlo con uno straccio e aprirsi un buco dal quale vedere la strada. Ah, benedetto buco! Nell'ampia Hudson c'era parecchio posto perché potessimo sedere tutti e quattro davanti. Una coperta ci copriva le ginocchia, la radio non funzionava. Era una macchina nuova fiammante comprata 5 giorni prima ed era già un rottame. Inoltre ne era stata pagata una sola rata. Via ce ne andammo a nord verso Washington sulla 301, un'autostrada diritta a 2 vie, senza molto traffico. Edin parlava, nessun altro parlava. Gesticolava furiosamente, qualche volta si protendeva fino a me per chiarire un argomento, qualche altra volta non metteva affatto le mani sul volante, eppur tuttavia la macchina filava dritta come una freccia, senza deviare mai dalla riga bianca nel centro della strada che scorreva baciando la ruota anteriore sinistra. Era stata una serie di circostanze del tutto prive di senso, quella che aveva fatto venire Dean, e nello stesso modo io ero partito con lui senza ragione alcuna. Questo era ancora Sulla strada di Jack Kerouac. Questa era Derek, un estratto dall'album in uscita l'11 di settembre da parte degli Animal Collective. Strawberry Jam sarà il titolo di quest'album, l'ottavo album della loro carriera. Prima ancora ad aprire la seconda parte di Eclettica di quest'oggi ci siamo ascoltati le quattro islandesi di nome Amina. Il pezzo in questione era Sex Faldor. Per passare con il prossimo brano invece ad un esordio assoluto, un album omonimo, un album di debutto omonimo, come si conviene in questi casi, da parte di una formazione che si chiama The Manhattan Love Suicides. Però non sono di Manhattan, anzi, sono inglesi. Escono per Squirrel Records con l'album già citato, dal quale ho estratto You'll Never Get That Guy. We'll be right back. A New York avevo frequentato le lezioni e avevo fatto il sentimentale con una ragazza di nome Lucille, un tesoro d'italiana, bella e coi capelli color del miele che veramente avevo intenzione di sposare. Tutti quegli anni ero andato in cerca della ragazza che volevo sposare. Non potevo incontrarne una senza chiedermi che razza di moglie sarebbe stata. Raccontai a Dean e a Mary Lou di Lucille. Mary Lou voleva sapere tutto su Lucille, voleva conoscerla. Filammo attraverso Richmond, Washington, Baltimora e su, verso Filadelfia, in una strada di campagna tutta curve, e chiacchierammo. «Voglio sposare una ragazza», dissi loro, «in modo da poter riposare la mia anima insieme con lei finché entrambi non diventeremo vecchi. Non si può andare avanti così continuamente, tutta questa frenesia e questo saltare qua e là. Dobbiamo arrivare in qualche punto, trovare qualcosa». «Oh, su, amico», disse Dean, «sono anni che ti sento parlare di casa e matrimonio e tutte queste belle e meravigliose cose sulla tua anima». Fu una triste notte. Fu anche una notte allegra. A Filadelfia entrammo in una rosticceria e mangiamo polpette col nostro ultimo dollaro destinato al cibo. Il gestore, erano le 3 del mattino, ci sentì parlare di denaro e si offrì di darci le polpette gratis e in più dell'altro caffè se ci fossimo tutti messi all'opera lavando piatti nel retrocucina, perché il solito uomo non si era fatto vivo. Afferrammo a volo l'occasione. Ed Dunkel disse che era un vecchio pescatore di perle venuto da lontano e immerse le sue lunghe braccia nei piatti. Dean stette a gironzolare là attorno con uno strofinaccio e lo stesso fece Mary Lou. Infine si misero a pomiciare in mezzo alle pentole e alle padelle. Si ritirarono in un angolo buio della dispensa. Il gestore non ci trovava niente da ridire, purché Ed ed io facessimo i piatti. Li finimmo in 15 minuti. Quando venne l'alba stavamo filando attraverso il New Jersey con la gran nuvola della metropoli di New York che si ergeva di fronte a noi nella lontananza nevosa. Dean s'era avvolto un golf attorno alle orecchie per tenersi caldo. Disse che eravamo una banda di arabi venuti a far saltare in aria New York. Questo era ancora Sulla strada di Jack Kerouac. The Mohawk Lodge con Wear 'Em Out, un brano che sempre ha avuto la sua occasione nelle ultime settimane all'interno di Eclettica. Eclettica che si chiude per l'intera settimana con un nome nuovo, un nome originariamente ucraino ma poi lei si è stabilita negli Stati Uniti. Si chiama Alina Simon, è uscita il 21 di agosto con un album dal titolo Placelessness e noi ci ascoltiamo in chiusura di tutta la settimana la sua So Edged Grass. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 46, volume numero 5. Indice: Graves, The Twilight Said, Schooner, Michael Dracula, Art in Manila, Amina, Animal Collective, Manhattan Love Suicides, Mary Timoney, The Mohawk Lodge, Alina Simon. Giulio Capperdoni vi ringrazia, vi saluta e vi rimanda a settimana prossima, a lunedì. Sempre alle ore 19 qua sulle frequenze di Rock FM.